Discuto in libertà, ricchezza e vanità. Non tollero amarezza, concubini, tenerezza. Ma se rovinando un'altra immagine saprò ritrovare la bellezza che di te frantumerò. Se tu e la tua beltà aveste riabbracciato senza me l'eredità, sarei rimasto qui con te. Ma se rovinando un'altra immagine saprò ritrovare la bellezza che di te frantumerò. Mare, mare, mare, quando tornerà Natale, sentimento della mente che ti ascolta indifferente. Mare, mare, mare, se mi ami puoi restare tutto il tempo che mi serve per travolgerti la mente. Non trovo la metà del tuo ricordo avverso, che cos'è l'eternità se tu non sei vicino a me. Ma se rovinando un'altra immagine saprò ritrovare la bellezza che di te frantumerò. Mare, mare, mare, quando tornerà Natale, sentimento della mente che ti ascolta indifferente. Mare, mare, mare, se mi ami puoi restare tutto il tempo che mi serve per travolgerti la mente. Se devi accanto a me sorpresi lei con te, così in un attimo sparai al suo cuore. Mare, mare, mare, quando tornerà Natale, sentimento della mente che ti ascolta indifferente. Mare, mare, mare, se mi ami puoi restare tutto il tempo che mi serve per travolgerti la mente.